Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Papà, malgrado la situazione completamente avversa, per la distanza, il fronte da attraversare, i rastrellamenti tedeschi, decise di tornare a casa, nella lontanissima Palermo. E sono Fortunato Ganci, abito a Palermo e ho 47 anni, sono un maresciallo dell'aeronautica militare, come papà, di cui racconterò la storia. Di vedetta sul Piave, ad un tratto mi sembrò di sentire voci sommesse provenire dall'argine opposto. Restai ben in ascolto ed aguzzai la vista. Ancora le stesse voci, e mi parve di capire che provenissero da dietro il graticcio sventrato. Cosa fanno, mi chiesi? Preparano un attacco, un colpo di mano? Stavo quasi per dare l'allarme, ma ecco che vidi passare rapido da una parte all'altra del canale un soldato austriaco, curvo sulla persona, con un grosso recipiente, un bidone o qualcosa del genere. È una corvée, pensai. Forse portano il caffè ai loro camerati. Qui non c'è bisogno di dare l'allarme, mi dissi. Adesso punto il fucile al centro dello squarcio del graticcio e appena si staglia la sagoma di un altro soldato, sparo. Non c'è da sbagliare. Lo colpirò senz'altro e lo stenderò morto sulla passerella. In fin dei conti, alle ultime esercitazioni di tiro al bersaglio, su 6 colpi feci 6 centri e la distanza era maggiore di questa. Sarà un bel risultato. Dopo chiamerò il sergente, forse anche il capitano, e sbalordirò tutti. Così si fa il servizio di vedetta, mi diranno i superiori. Bravo Vanni, sei stato vigile e attento. Hai sparato e hai colpito bene. Sei stato d'esempio a tutti. E forse mi daranno una ricompensa, un encomio o, chissà, una medaglia. Alzai il fucile e lo puntai attraverso la feritoia. Tolsi la sicura e mirai al centro dello squarcio, al punto giusto per colpire un uomo all'altezza del petto. Intanto era quasi chiaro. Due uccellini, apparizione insolita e sorprendente, volarono bassi attraverso il fiume, lanciando brevi cinguetti. Si sentiva nell'aria il profumo eccitante della primavera. Un riso, fresco e giovane, mi giunse all'orecchio. Questo riso era di un ragazzo, come me. Perché ride con tanta disinvolta noncuranza a pochi passi dal nemico? Forse è il più spericolato, appunto perché è più giovane, e ride di quella strana situazione in cui si trovano lui e i suoi compagni. Ecco che passa un altro. Si ferma per un attimo al centro della passerella e fa un cenno a qualcuno che è rimasto di là. Lo vedo molto bene. È biondo, giovanissimo. È lui quello che rideva. Sento ancora il suo riso sommesso ma limpido che ora proviene dall'altra parte del canale dove è balzato. Mi sorpresi a rimettere la sicura e a togliere il fucile dalla feritoia. Perché non ho sparato? Era giusto. È giusto che spari. È la guerra, sono i nemici, devo ucciderli. Perché non l'ho fatto? Cos'è accaduto? Pietà. Pietà per lui, per il suo riso gioioso, per la sua giovinezza, per il suo amore, per il suo amore per la vita. Perché ho abbassato il fucile? Forse per l'aurora che prorompe di là dall'argine, per gli uccelli che cinguettano felici, per quell'inno alla primavera che si eleva d'intorno. Perché dunque ho voluto prendere parte a questo fatto assurdo e atroce che è la guerra? «Olà, Vanni, novità?» mi chiede una voce. «Niente di nuovo, sergente». E con questo racconto incredibile che arriva diretto dalla prima guerra mondiale, dal fronte del primo conflitto mondiale, che voglio cominciare non solo questa puntata ma questa intera settimana di luglio, che è tutta dedicata alle storie di guerra. Come vi dicevamo, abbiamo deciso di fare un mese di luglio a temi tematici e questa è dedicata proprio a quello, alla prima guerra mondiale o alla guerra in generale. Apriremo tutti i racconti, tutte le puntate, con un racconto che arriva da là, dalla prima guerra mondiale, perché appunto cade centenario dall'inizio del primo conflitto mondiale, e lo facciamo, e questo è tra quelli, grazie al contributo dell'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, con cui da più o meno qualche mese abbiamo una fervida collaborazione. Loro ci hanno fornito diversi racconti che arrivano da là, dalla prima guerra mondiale, mentre i racconti che ci hanno mandato gli ascoltatori, più o meno per motivi cronologici e di età, hanno a che fare con la seconda. E invece, grazie all'Archivio Nazionale di Pieve Santo Stefano, noi potremo aprire le puntate con una storia che arriva direttamente da quegli anni, dall'inizio del secolo, dalla prima guerra mondiale. È per questo che ringrazio, ed è al telefono con noi, tra gli altri, Nicola Maranesi. Pronto, Nicola, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Come stai? Bene, bene, grazie. Innanzitutto grazie mille per il contributo e grazie soprattutto per, citiamo questo perché gli altri li citeremo nei prossimi giorni, per il racconto di Antonio De Maria che appunto ho letto in apertura. Lui era un soldato semplice che poi insomma diventa ufficiale ma pochi giorni prima della disfatta di Caporetto e poi diventerà ufficiale della Guardia di Finanza e andrà in pensione nel 57 con il grado di generale. E volevo cominciare proprio con questa storia perché è la storia di uno che decide a modo suo e per un piccolo secondo di non partecipare alla guerra. Lasciami solo introdurre tutta la settimana, Nicola. Io vorrei che non passasse una sorta di romanticismo legato ai racconti che mandiamo, che sono veramente tutti magnifici, compresi soprattutto i vostri. Nel senso che non c'è nulla di romantico nella guerra, è una roba orribile, nefasta, che ha ucciso e continua a uccidere milioni di persone. Cerchiamo solo, grazie anche al contributo dell'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, di raccontare quello che è stato e possibilmente magari che non sarà più, diciamo, questo solo per introdurre. Tra l'altro, Nicola, voi avete fatto un sito che è fenomenale, che è veramente magnifico, complimenti, perché tra l'altro ci piace, a noi piace probabilmente perché ricorda un pochettino in parte la mappa di Voi Siete Qui. Sicuramente pubblicheremo adesso su Facebook il link. È un diario, è una sorta di grande raccolta online dei diari della Grande Guerra. Se vuoi spiegarlo tu meglio, sicuramente Nicola lo sai fare meglio di me. Sì, volentieri, è una bella collaborazione che abbiamo realizzato insieme al Gruppo Espresso e è un po' un sogno che si realizza. Sono tante parti di questi diari di guerra che sono conservati a Pieve Santo Stefano, che sono state pubblicate online, che sono accessibili a tutti da casa con un semplice click, ed è il sogno di archivisti e diaristi degli ultimi 30 anni che adesso è divenuto possibile. Tra l'altro in questa parte di sito in fondo c'è una vera e propria mappa che è veramente pazzesca, perché insomma a un primo occhio capisci dove è stata la guerra. Già questa cosa è interessante, capisci da che parte era, ovviamente era la parte nord-est del nostro paese, e al posto del puntino rosso sulla mappa che abbiamo noi ci sono dei pennini di penna stilografica che indicano da dove arriva il racconto, cliccandoci sopra lo si apre direttamente e si va là, giusto Nicola? Esattamente, è una bellissima idea che ha avuto il collega Pier Vittorio Buffa, che ha curato questo progetto insieme a me e che ha ideato la struttura di questo sito. E navigando su quella mappa che hai descritto si può passare da un racconto a un altro e mettere anche a confronto le storie di guerra di soldati che hanno combattuto gomito a gomito e che hanno raccontato quell'esperienza negli aspetti più diversi possibili. Leggo proprio dalle parole di Buffa: uno strumento per viaggiare nel tempo, infilarsi nelle trincee della Grande Guerra, ascoltare i discorsi dei soldati, percepire gli odori, sentire i rumori, provare la paura, vedere gli orrori e desiderare il ritorno a casa. Noi ne leggeremo altri durante questa settimana. Questo in particolare, il racconto che ho letto di Antonio De Maria, come arriva? Ti ricordi da quanto è nell'archivio? Chi l'ha portato? E guarda, esattamente da quanto è nell'archivio non te lo so dire. La famiglia di De Maria, in contatto con l'archivio, ha partecipato anche a questo progetto con grandissimo entusiasmo. La storia di un ragazzo giovane, giovanissimo, come dicevi tu, Antonio ha appena 17 anni, certo, quando cerca di andare al fronte, ed è una delle molte storie dei ragazzi dell'89 che sono conservate in questo fondo inedito e che sono sicuramente fra le più avvincenti, perché quei ragazzi veramente avevano uno sguardo particolare. E tra l'altro, diciamo, ogni storia che c'è catalogata in questo vostro sito, che lo trovate comunque passando anche ovviamente dal sito dell'Archivio Nazionale dei Diari, comincia con: avevo 28 anni quando siamo entrati in guerra, avevo 25 anni, avevo 21 anni, avevo 17 anni quando siamo entrati in guerra. Nicola, io ti ringrazio ancora, non solo per la chiacchierata ma per il contributo che ci avete dato per tutta la settimana. Noi apriremo sempre con una storia che arriva dalla Prima Guerra Mondiale per ricordare questi 100 anni e sperare che ovviamente robe del genere non succedano più. Grazie ancora. Grazie a voi, Matteo. A presto, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Oggi noi siamo in onda, come vi dicevo, è lunedì e quindi cominciamo la settimana e la cominciamo come avete sentito, con storie di guerra. Però poi facciamo quello che facciamo tutti i giorni. Raccontiamo le storie che ci arrivano dagli ascoltatori. C'erano direttamente, non di prima mano in questo caso, perché quando si parla di storie di guerra, fortunatamente, insomma, sono abbastanza distanti nel tempo, perlomeno nel nostro paese, per poterci scrivere di prima mano, di primo pugno. La prima storia è quella di Fortunato, che racconta di un ritorno a casa di suo papà. Lui è di Palermo e parla proprio di quello, di una di fatto di una dismissione e della voglia e del desiderio di tornare a casa, perché appunto la guerra è una roba talmente orribile che non vedi l'ora di tornare a fare le cose che facevi prima, cioè di tornare a vivere la tua vita. A differenza di molti italiani che, avendo vissuto la tragedia dell'ultima guerra, hanno preferito non parlarne, per mera rimozione, per vergogna o anche per qualche forma di inconsapevolezza, papà ne parlava molto. L'esperienza bellica, il traumatico ritorno a casa, lo strascico morale e sociale che tali eventi lasciarono nella società italiana erano per lui ricordi vividi e fecondi per il giudizio sempre lucido e partecipativo dei fatti politici e sociali contemporanei. Arruolatosi immediatamente, come molti giovani italiani, nel giugno del 40 come volontario specialista della Regia Aeronautica, fu impiegato, dopo il corso di addestramento, come equipaggio di volo della 173esima squadriglia. Questa subì motori Fiat CR25, operò dall'aeroporto di Palermo Bocca di Falco in missioni sul Mediterraneo per la scorta dei convogli diretti in Nord Africa, fatti che gli valsero una decorazione bronzea al valore militare. Papà era una persona molto seria, sia perché si è sposato in età avanzata, per cui rispetto a noi c'era una molta differenza di età, per cui l'ho sempre visto come una persona molto seria e poi molto molto attaccata a questa sua a questa sua avventura che è stata la guerra. Tralasciando le varie drammatiche esperienze segnate dalla conta dei caduti, dagli incidenti, le carenze di mezzi, bombardamenti, ansia per i familiari nelle città bombardate, un evento altrettanto significativo e di sicura cesura fu per lui il fatidico 8 settembre. Nel luglio del 43, durante lo sbarco degli alleati a Gela, furono sacrificati migliaia di soldati italiani, non presunte milizie nazifasciste, ma militari con le stellette. L'acutezza del suo comandante, che adducendo scuse tecniche riuscì a non immolare la propria squadriglia in una improbabile quanto inutile azione antisbarco, fece sì che il reparto potesse senza perdite ripiegare a nord per ritrovarsi la mattina dell'8 settembre presso l'aeroporto di Civitavecchia. Il comandante, riunito tutto il personale, comunicò la nuova situazione e le probabili prospettive. Il baratro in cui l'intero popolo italiano, ma soprattutto le forze armate, furono gettate dal governo Badoglio apparve subito molto chiaro. Totale mancanza di ordini e programmazione, dissoluzione dello Stato e di qualsiasi punto di riferimento. I militari, dalle stellette legate al giuramento al re e non allo Stato fascista, completamente in balia della loro sorte e degli eserciti stranieri. Malgrado la situazione completamente avversa per la distanza, il fronte da attraversare, i rastrellamenti tedeschi che iniziarono da subito e i mitragliamenti degli alleati, decise di tornare a casa, nella lontanissima Palermo. Mi raccontava sempre con estrema lucidità come prese le prime decisioni circa il da farsi e soprattutto come disfarsi dell'uniforme. la strada da prendere per attraversare le linee del fronte e il comportamento da tenere con i tedeschi. Insieme a qualche altro compagno siciliano, optarono per un percorso che passasse dalla Puglia fino giù, in Calabria, per poi attraversare lo stretto. Ricordo alcuni nomi e circostanze del lungo tragitto che lo portò in 40 giorni all'agognata casa. Un miracoloso treno che li portò in Adriatico. Ortona, spettrale e deserta. La minaccia in una stazione di tedeschi armati che, fortunatamente, non ancora incattiviti, li lasciarono andare via, malgrado avessero riconosciuto i calzoni militari, e grazie anche alle miracolose parole mamma e casa. Non ricordo che stazione fosse, se era la stazione di Bari, comunque nelle Puglie, in Puglia. Sono sbucati fuori dei tedeschi e hanno puntato il mitra. E loro con braccia alzate, ovviamente il tedesco li ha riconosciuti per militari, perché loro, anche se hanno raccolto degli abiti civili, comunque i calzoni erano sempre quelli della divisa. E loro si sono fatti avanti, braccia alzate, dicendo appunto mamma casa, insomma quello o aveva altro da fare o comunque si sarà intenerito e insomma sono riusciti ad andare via. E poi ancora il ricordo di un passaggio in camion di un tedesco padre di famiglia, come mi diceva, a Serra Capriola. La notte passata in una scuola, poi presa d'assedio dalla gente per linciare il bidello fascista. Non ricordo se a San Severo o a Foggia, scuola dalla quale uscirono rocambolescamente. E poi la fame, la fatica, le scene dantesche dell'attraversamento dello stretto in una barchetta fra approfittatori e filibustieri. In queste circostanze, in queste tragedie, abbondano sempre. La prigionia e la libertà sulla parola degli americani a Milazzo, di cui conservo gelosamente il documento. E poi il rientro a Palermo, devastata, sia dalle bombe, sia dalla assoluta abiezione e degradazione morale e civile. Dai suoi racconti, credo che la gioia del rientro si fosse dissolta nella frustrazione di ritrovare una città irriconoscibile, sul piano urbanistico, dato che i bombardamenti del 43 distrussero quasi tutto il centro storico, e soprattutto sul piano morale, per il malaffare, l'intrallazzo e la prostituzione imperanti. Mi raccontava anche dell'impressione amara che ricevette quando vide la disponibilità immensa di mezzi e materiali di cui disponevano gli alleati, contro i quali i militari italiani furono costretti così stoltamente a combattere. If I let you still inside of me. Intanto mi scrivono se è possibile continuare a mandare storie anche per l'anno prossimo. La risposta è assolutamente sì. Il programma in questo mese di luglio è in una versione speciale, perché primo perché non eravamo mai stati in onda a luglio se non con delle repliche, invece queste sono tutte puntate originali, però dicevo è una versione speciale per il semplice fatto che è tematica, cioè sono 4 settimane. Abbiamo fatto storie di mondiali la scorsa settimana, facciamo storie di guerra, questa che comincia oggi e che andrà avanti fino a venerdì, ovviamente, se una settimana vado a mandare lunedì al venerdì, non mi sfugge niente. E le ultime due invece saranno storie di viaggi e storie di avventura, così sperando che l'estate un pochettino porti quell'aura lì, quella di appunto che se ne va, insomma si prende e si parte, e quella invece legata a cose nuove che succedono nella nostra vita. Ma detto questo, noi a settembre ricominciamo belli secchi con la quarta stagione di Voi Siete Qui e con qualche piccolo restyling del programma, ovviamente, cioè, ogni anno cerchiamo di fare qualche cosa di diverso, ma soprattutto con le vostre storie, quelle continuiamo a chiedervele in maniera integerrima e imperterrita. Voi siete qui @radio24.it, l'indirizzo mail è sempre quello lì, basta un allegato in Word, basta una pagina e mezzo, massimo due. L'importante è che sia un episodio che vi è realmente accaduto e che in qualche modo ha segnato un piccolo confine nella vostra vita, che vi rappresenta, che racconta un pezzo di voi. E non deve essere per forza una storia che siete abituati a raccontare, basta che sia una storia che in qualche modo vi ha segnato. Non so come succeda nella testa delle persone che ci hanno scritto, cosa scatti. A un certo punto ti viene in mente quell'episodio, molti mi scrivono ci ho pensato per un po' e poi mi è venuta in mente questa storia, altri invece mi hanno detto subito ho pensato che questa era la storia da raccontare. Quindi se volete scriverci, continuate a farlo per tutta la stagione prossima, per tutta l'estate. Voi siete qui, @radio24.it. Scaricatevi i podcast, ma soprattutto se avete tempo libero, se state per partire e non sapete che ebook portarvi dietro, pensate che culo che avete. Gratuitamente potete scaricarvi il terzo ebook di Voi siete qui, 97 storie tratte dalla stagione che è appena passata, quella 2013-2014, ovviamente. Andando sul nostro sito radio24.it ci trovate il link, o altrimenti cercate sulle vostre piattaforme, da Google Play a iTunes fino ad Amazon. Voi siete qui, Radio 24, Voi siete qui, vi appaiono 3 ebook. Se non avete mai scaricato i primi 2, scaricateveli. Se lo avete fatto, invece scaricatevi solo l'ultimo. Sono 97 storie fresche per la vostra estate. Domani continuiamo a raccontare storie di guerra, in apertura storie della Prima Guerra Mondiale per il centenario, e nella seconda parte invece storie che ci avete mandato voi, che per lo più sono storie della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a Pietro Lacorte, che è stato ai tasti di là, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto all'autore della storia di oggi, che era Fortunato, perché appunto la storia era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.